Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Uno dei filoni considerati più promettenti per quanto concerne le energie rinnovabili è il cosiddetto CSP, Concentrated Solar Power, o anche solare termodinamico. L'idea di fondo è semplice tutto sommato. Degli specchi concentrano la luce del sole su un bersaglio, un tubo o un recipiente che contiene un fluido in grado di sopportare temperature molto elevate. Questo fluido a sua volta poi viene utilizzato per far bollire dell'acqua, trasformarla in vapore ad alta pressione che attiva una turbina e produce energia elettrica. Il grande vantaggio di questo approccio è che questo fluido bollente può essere accumulato e utilizzato per produrre energia elettrica anche quando il sole viene a mancare. Ciò che però insomma appare così semplice in realtà non è poi così tanto facile da realizzare. Per esempio, parliamo di questi fluidi. I più usati sono degli oli minerali, detti oli diatermici, che sono molto inquinanti e non raggiungono temperature particolarmente elevate, oppure per esempio una miscela di sali fusi, miscela che arriva anche a 600 gradi di temperatura, ma che ha anche lei le sue criticità, per esempio rischia di solidificare. Tra l'altro molte di queste soluzioni sono state sviluppate in Italia, e dall'Italia arriva anche l'ultima novità in fatto di solare termodinamico. Si chiama STEM, che sta per Solare Termodinamico Magaldi. Ne parliamo con Gennaro De Michele, che è responsabile scientifico del progetto STEM con una lunga esperienza in Enel. Progetto STEM che è frutto di dell'idea di Mario Magaldi, quale a sua volta è presidente del gruppo Magaldi, che è un'azienda, diciamo un gruppo industriale molto grande. Diciamo così, sono specializzati nel maneggiare roba bollente, come ceneri di inceneritori, roba da fonderia e quant'altro. Allora, buonasera De Michele. Buonasera. Partiamo dalla descrizione di questo impianto. Io direi cominciamo con la parte ottica. Ci sono tanti specchi che sono montati su dei sistemi che sono chiamati eliostati, che sono in grado attraverso degli automatismi di seguire la traiettoria solare. Sì, e certo. Questi specchi che si muovono, diciamo, in maniera coordinata, inseguendo il sole in maniera coordinata, cosa fanno? Riflettono la radiazione solare su degli specchi secondari. Sì. Che si trovano in cima ad una torre, i quali sono in grado di riflettere per terra, diciamo, in un'unica porzione di spazio, che è la porzione nella quale poi si andrà a posizionare il ricevitore che deve accumulare l'energia raccolta dagli eliostati. E qui veniamo all'aspetto più innovativo della vostra tecnologia, che è appunto il ricevitore, questa specie di pentolone dentro cui piovono i raggi concentrati del sole. Che cosa c'è lì dentro? Nel ricevitore c'è un fluido che è costituito da aria e particelle sospese, cosiddetto letto fluido. Praticamente è sabbia, noi abbiamo, immaginiamo la sabbia, quella che troviamo sulla riva del mare per intendersi, no? Ne prendiamo un pentolone, buchiamo questo pentolone, pompiamo dentro aria, è giusto? È così che funziona? Come succede che a un certo punto, data una certa portata di aria, questa sabbia si mette in sospensione, rimane sospesa nell'aria, e questa miscela di aria e di sabbia sospesa ha le caratteristiche di un liquido. Si comporta come un liquido, come una sabbia mobile, solo che invece di essere sabbia e acqua, è sabbia e aria, quindi ancora più fluido, se vogliamo, no? In un certo senso. È molto più fluida, e tanto per farle un esempio, se lei buca il recipiente, uscirà uno zampillo, esatto, di aria e di sabbia che segue la legge di Bernoulli. Cioè la stessa che seguirebbe un getto d'acqua, no? E come un liquido ha, diciamo, eccezionali proprietà di scambio termico, sì, trasferimento di calore, cioè il calore all'interno di questa miscela si trasporta con grandissima velocità, e c'ha una cosa in più però rispetto al liquido, ha una grandissima capacità termica, che è proprio la capacità termica dei solidi, cioè è in grado di accumulare calore. Perché questa miscela di aria e sabbia raggiunge, prima di andare in crisi, diciamo così, i 1600 gradi, ecco, giusto? In teoria. La temperatura di fusione della sabbia silicea, che è 1600 gradi. A questo punto, dentro questo pentolone pieno di sabbia, passa anche un tubo, sostanzialmente, all'interno del quale scorre dell'acqua. È così che voi producete vapore. Esattamente, questo grosso letto fluidizzato, che è fatto appunto di sabbia e di gas, in una sua porzione viene attraversato da uno scambiatore di calore in cui entrando acqua si produce vapore ad alta pressione, ad alta temperatura. Il letto però non esaurisce qui la sua funzione, perché una parte di questo letto funziona come accumulo termico, quindi data una certa quantità di energia che entra nel sistema, una parte la accumuliamo, un'altra parte la utilizziamo subito. La parte che accumuliamo la possiamo utilizzare di notte o diciamo quando il sole non c'è. Grazie De Michele, noi ci fermiamo qui, però domani ci risentiamo e continuiamo a parlare di questa nuova idea di solare termodinamico. Buonasera, a domani.